America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Musiche patriottiche, beh certo, perché oggi è Memorial Day Weekend, Memorial Day, il giorno della memoria, il giorno del ricordo, in cui si celebrano tutti i caduti di tutte le guerre americane. La borsa è chiusa, le scuole sono chiuse naturalmente, e vacanza. E che è successo? Che negli anni il Memorial Day Weekend è anche diventato, diciamo, quel fine settimana con cui si dà l'avvio alla stagione estiva. Stagione estiva vuol dire naturalmente mare, vuol dire nuove canzoni, vuol dire barbecue, vuol dire partecipare anche alle tante cerimonie in onore dei caduti americani. E dunque io vorrei cogliere l'occasione di questa giornata per dedicare questa puntata a un grande caduto americano, al presidente John Kennedy. Perché? Perché John Kennedy è stato ucciso nel 1963, il 22 novembre del 1963. Dunque quest'anno, il 2013, è il 50° anniversario dell'assassinio di questo grande presidente americano, che è rimasto nella storia come il presidente giovane, come questo gruppo di Camelot, Jacqueline, i figli bellissimi, la famiglia, il fratello Bob, che poi fu assassinato anche lui. Tra l'altro il 29 maggio, dopodomani, sarebbe stato il 96° compleanno di John Kennedy. E quindi, visto che quest'anno si parlerà molto di lui, ho voluto dedicare questa puntata a John Kennedy e così cominciare un piccolo dialogo su questo presidente americano, che poi seguiremo da qui fino a quando non ci saranno poi le ricorrenze vere e proprie, le grandi cerimonie alle quali parteciperà il presidente Barack Obama. Sto parlando appunto delle cerimonie attese per novembre di quest'anno. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Una delle frasi, beh, direi caratteristiche più importanti pronunciate da John Kennedy quando, durante l'inaugurazione nel 1961, disse: non chiedete al vostro paese cosa può fare per voi, ma chiedete a voi stessi che cosa potete fare per il vostro paese. Beh, una frase credo che dovrebbe risuonare soprattutto di questi tempi molto anche da noi. John Kennedy è stato un personaggio leggendario. Pensate che nel 1957, appena quarantenne, era già stato eletto al Senato a sorpresa nel Massachusetts, ha scritto un libro su 8 personaggi storici americani che ha vinto il premio Pulitzer. Dunque un uomo chiaramente di straordinarie risorse intellettuali e non soltanto, come dicevano alcuni, un figlio di papà. Sappiamo ovviamente che il padre Joseph Kennedy era ricchissimo, la famiglia era ricchissima, il matrimonio poi con Jacqueline de Beauvoir, Jacqueline Kennedy, un'altra grande famiglia americana, era anche una famiglia cattolica, e Kennedy fu il primo presidente cattolico. E bisogna ricordare che i cattolici, Kennedy di origine irlandese, beh, diciamo, venivano così visti con un certo sospetto dai WASP, dai protestanti, da coloro che sono stati i fondatori principali della nazione americana. La svolta storica che ha portato Kennedy è stata la svolta di un giovane che ha aperto nuove frontiere, è stata la svolta di un primo ponte verso queste divisioni culturali che ancora c'erano in America. Ma non voglio continuare, perché parleremo a lungo quest'anno di Kennedy, della sua esperienza militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Dunque è giusto che proprio oggi, il Memorial Day, come vi dicevo, celebriamo il suo nome. Parleremo delle sfide della sua presidenza coi russi, con la Baia dei Porci, col rischio di una crisi atomica, e quindi preferisco invece fare una chiacchierata su quello che è stato il suo messaggio, su qual è la figura del presidente, con una sua nipote, con Kerry Kennedy, che è qui con noi ai microfoni di America 24. Buongiorno Kerry. It's so great to be here. Tell me something, this is a special year for your family. Are you starting to think about what's going to happen? Well, you know, we actually in my family try to... Ecco, chiedo a Kerry come la famiglia sta affrontando quest'anno così particolare del 50° anniversario della morte di JFK, e mi risponde che lei e la famiglia stanno cercando di concentrarsi soprattutto sulla vita di JFK, non sulla sua morte. Abbiamo partecipato, mi ha detto, a una serie di eventi alla Casa Bianca per celebrare appunto i momenti più importanti della presidenza di JFK, e queste celebrazioni continueranno fino al 2018. Vi dicevo, Kennedy è nato nel 1917, il 2018 sarà l'anno che chiuderà il centenario della sua nascita. How would you think he would have advised, for example, President Obama on how to bring the country together, a country that seems to be so divided? Well, you know, you're right. E se dovesse pensare a un consiglio che suo zio darebbe a Obama, quale sarebbe? E Kerry mi risponde che assolutamente l'immagine di Kennedy è ancora viva in America, la sua forza vibrante, il suo entusiasmo che così caratterizzarono questa Casa Bianca, portarono una energia nuova rispetto ai presidenti che lo avevano preceduto, una famiglia giovane che portava con sé grandi speranze per il futuro, ma anche nuove sfide, un presidente che varcava nuove frontiere dicendo, come nessuno aveva detto prima, di nuovo nel discorso inaugurale, che la guerra, la tirannia, la malattia, la povertà erano i veri nemici dell'umanità. E credo, mi dice Kerry, che questi siano ancora i problemi centrali con cui ci confrontiamo oggi, ma c'è anche questa sensazione del yes we can, che in fondo è obamiana, possiamo farcela. E c'è una carica, una fiducia, un entusiasmo che nasceva allora proprio dalla sensazione di potersi unire insieme, accettare la sfida e fare qualche cosa di più. E mi dà un esempio. L'esempio è quando nel mezzo della guerra fredda i sovietici erano più avanti dell'America nella corsa allo spazio, lui disse: avremo il programma spaziale, la NASA, investiremo 22 miliardi di dollari e manderemo il primo uomo sulla Luna. Sembrava un'idea pazzesca, visionaria, e però ce la fece. Quindi il messaggio è: possiamo farcela. Well, you know, I think back to what my father was. Parliamo di leadership, perché Kennedy appunto era un leader. Oggi manca la leadership. Cosa ci dice Kerry Kennedy su questo? Che la sua leadership stava in che cosa? Nel fatto di essere capace di tirare fuori il meglio da tutti noi, dalle singole persone, dagli americani. Pretendeva il meglio da tutti, riusciva a entusiasmare la nazione. E dovendo pensare a oggi, se si pensa che non ci sia abbastanza leadership, bene, dice Kerry Kennedy, scendete in campo, fatevi eleggere, c'è bisogno di persone che vogliono mobilitarsi, bisogna partecipare alla vita pubblica, lavora con la scuola dei tuoi figli, fai sentire la tua voce. Troppo spesso, dice, pensiamo di non essere in grado, di non saperne abbastanza, e invece basta unirci insieme e cambiare il sistema che non ci piace. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Bene, ed eccoci alla canzone del giorno. Dobbiamo dedicarla a John Kennedy, visto che Kerry Kennedy è ancora qui con me. Voglio chiederle qual era una delle canzoni favorite del presidente americano. What was one of John Kennedy's favorite song? Well, he loved The Impossible Dream by Frank Sinatra. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to the unreachable stars. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.